nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.47, tramonterà alle 16.46. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. La rete delle città del vino sta crescendo anche in Friuli Venezia Giulia. Dopo gli ultimi ingressi ce ne sono 39 e stanno varando un articolato programma di iniziative. Le tradizioni contadine legate al culto di Sant'Antonio nel corsivo di Licio Damiani. Per la serie dei legumi da granella oggi in scena i proteici e popolarissimi ceci. La diraspatura e pigiatura delle uve, passaggio delicato nell'ambito della macerazione, nella rubrica del vino. Tra i grandi alberi del Friuli Venezia Giulia un posto d'onore lo hanno sicuramente i due filari di cipressi secolari del castello di Susans. Gnocchi di pane e formaggio, proposta popolarissima della cucina che riserva varianti e gustose sorprese. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. La prima risale al 1987 ed è Cormons, la prima città del vino del Friuli Venezia Giulia, che in questi anni sono salite di numero fino a 39. Cosa sono? Cosa fanno? Qual è il futuro della città del vino? Lo illustra Tiziano Venturini in studio con noi oggi, che è il coordinatore regionale delle città. Città del vino è una rete di comuni vocati alla viticoltura di qualità, è un'associazione nazionale con quasi 500 comuni che aderiscono a questa associazione, con una declinazione regionale con ben 39 comuni. Quali gli ultimi ingressi qui da noi? Diciamo nel 2023 abbiamo avuto ben 8 comuni che hanno aderito alla nostra rete, gli ultimi Codroipo, Cervignano, Ronchi dei Legionari. Quanta gente coinvolgono e quanti territori? I 39 comuni abbracciano i territori di tutta la regione e rappresentano tutte le denominazioni di origine. Ben 230.000 abitanti di questa regione sono città del vino. Iniziative in atto. Proprio sabato prossimo, il 20 gennaio, a Mariano del Friuli, faremo la nostra assemblea annuale. Le ultime iniziative sono quelle delle grandi verticali delle città del vino, che sono attualmente in corso. E ben 13 comuni hanno aderito a questa iniziativa, quindi 13 appuntamenti nelle città del vino a presentare i prodotti locali. Sabato 20 presenteremo anche l'Osservatorio del Turismo del Vino, presentato da Numisma, è un'iniziativa a carattere nazionale, è uno strumento che diamo in mano ai sindaci di città del vino per capire dove il turismo del vino sta andando. Un'altra iniziativa proprio che sarà presentata sempre sabato 20 è quella della vendemmia turistica didattica, un'esperienza che abbiamo fatto in Italia per la prima volta nella scorsa vendemmia e che sarà presentata da Promoturismo. Iniziative a più lungo respiro. Stiamo lavorando già da alcuni mesi per un'importante iniziativa in occasione di Go 2025. Il 31 maggio, il 1 giugno, il 2 giugno porteremo a Gorizia il 22esimo, nella 22esima edizione del concorso enologico internazionale di Città del Vino, un concorso itinerante che quest'anno sarà ospitato proprio a Gorizia. Chi volesse saperne di più, dove può trovare tutte queste notizie? È sul sito di Città del Vino, www.cittadelvino.fvg. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, raccolti nel volume Vita nei Campi, Storia, Memorie e Leggende della Campania, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo Il Santo Padrone del Fuoco, andato in onda il 17 gennaio del 1993. Per la festa di Sant'Antonio Abate, altra ricorrenza legata ai riti delle campagne, i cui resti, grumi di usanze pagane, sono stati rinverditi dall'innesto della tradizione cristiana. Riti desueti, ma che un tempo affioravano da una memoria culturale inconscia. Sant'Antonio dalla barba bianca, se non piove, la neve manca. Il patriarca storico del monachesimo, vissuto in Egitto nel III secolo, proprio per la sua collocazione nel calendario calendario, pare sia morto effettivamente a metà gennaio, sostituì nell'immaginario popolare la funzione delle divinità pagane preposte alla fecondità e alla fertilità. Molte cerimonie agricole legate alla benedizione dei campi e alla purificazione degli animali, tipiche del mese di gennaio nella Roma antica, furono trasferite nella festa di Sant'Antonio. Ancora oggi è in uso in molti centri italiani benedire il 17 gennaio gli animali domestici. Nella nostra regione l'uso della benedizione era radicato soprattutto nel Friuli occidentale. Nel Lazio la festa si ingemmava delle infiorate, le corone di fiori che ornavano cavalli e bovini all'uso latino. Secondo alcune leggende, il santo sarebbe anche padrone del fuoco e avrebbe il compito di stazionare alle porte dell'inferno per sottrarre ai diavoli le anime dei non meritevoli dell'eterno castigo. Si racconta addirittura che fu l'eremita Antonio a procurare agli uomini il fuoco, dopo averlo portato via dalle fiamme infernali, spaventando i demoni con il maialino che accompagna nell'iconografia rusticana la sua figura. Il maialino, secondo alcuni studiosi, sarebbe la corruzione del cinghiale, che nella religione celtica rappresentava il dio della fecondità, della resurrezione, della nuova vita. Ma il maiale, come ricorda il poeta latino Ovidio, era anche l'animale che i contadini sacrificavano alla madre delle biade, Cerere, la greca Demetra, scesa agli inferi per ritrovare la figlia Persefone. Dal maialetto simbolico discendeva in Friuli l'usanza del purcì di Sant'Antoni, il suino randagio che le famiglie dell'intero paese allevavano per farne regalia al parroco. E a metà gennaio cadeva il periodo della sua macellazione. Il 20 gennaio il sole entra nella costellazione dell'Acquario, al quale greci e romani avevano dedicato il pavone, sacro alla dea Era o Giunone. La sua ruota, simbolo del notturno splendore celeste delle notti invernali particolarmente terse, era chiamato appunto il volto di Era. Per la rubrica del bio continua la rassegna dei legumi da granella. Oggi Cristina Micheloni mette sotto l'obiettivo i ceci. Dopo i bagordi festivi, niente di meglio che una sana dieta detox a base di legumi. Oggi parliamo del cece, una delle prime colture ad essere state domesticate, e dobbiamo risalire la corrente della storia di circa 8.000 anni e spostarci verso Siria, Turchia, Iran ed Iraq per trovare dove il Cicera retinum si incontra per la prima volta. Da lì poi si diffuse velocemente sia a est verso l'India che a ovest nel bacino del Mediterraneo e dell'Africa, tant'è che oggi risulta il terzo legume da granella come quantità consumata a livello mondiale. È vero, il nome ha a che fare con Cicerone, ma non propriamente per via del legume, bensì di una verruca di simili sembianze che albergava sul naso di un soavo, da qui il patronimico. Invece Arietinum ci riporta la similitudine del seme con la testa di Ariete. E arriviamo alla fatidica domanda: è in Friuli? Il nome in friulano c'è, Picciui, quindi presumibilmente il consumo ed anche un po' di produzione, sempre fino prima del 1600. Ma la coltivazione è ritrovata in auge di recente, ci sono infatti da 4-5 anni alcuni bravi produttori bio friulani che li coltivano e ne curano tutta la pulitura e selezione per arrivare al prodotto finito. La coltura è particolarmente interessante non solo perché è una leguminosa e anche piuttosto rustica, ma anche perché è in grado di fronteggiare periodi siccitosi e anche alte temperature. Benché la pianta sia esile, tra l'altro molto bella e peculiare, riesce a sviluppare una radice che arriva a 2 metri di profondità, andandosi quindi a cercare da sola l'acqua di cui necessita. Resiste anche abbastanza bene al freddo, fino agli 0 gradi. Quindi da noi si semina a fine inverno, diciamo fine febbraio, e si raccoglie in piena estate. Stiamo sperimentando però anche la semina autunnale, che permetterebbe di ottenere una pianta più sviluppata, con un'inserzione più alta del primo bacello. Essendo un seme abbastanza grosso, va posizionato a 5-6 cm di profondità e una distanza tra le file tra i 40 e i 50 cm. Considerate che dovete entrare a gestire le malerbe, quindi lo spazio dipende un po' da che attrezzature volete utilizzare. Come tutte le leguminose, mal sopporta i terreni troppo fertili, che riducono la legagione, e quelli argillosi, perché portano ad asfissia radicale. Molte le varietà e gli ecotipi disponibili, nulla però di realmente friulano. Però potete scegliere fra quelli bianchi, neri, rosati, eccetera, tenendo presente, come per le lenticchie, che quelli più buoni sono quelli più piccoli. La raccolta ideale avviene in 2 fasi, mietitura e trebbiatura, magari attendendo qualche giorno fra le due. Se siete nell'orto, si va tutto a mano. Un ultimo suggerimento, meglio una rotazione lunga che lo riporti sullo stesso terreno non prima di 4 anni. Due parole sull'uso. Dal Medio Oriente ci arrivano hummus e falafel, dall'India al chana masala, da noi più comune la pasta e ceci, dove la combinazione cereali e leguminose offre il pasto perfetto, come nel caso di orzo e fagioli o risi e bisi, perfetto anche per l'ambiente, tra l'altro. Una curiosità, in Asia le foglie di ceci sono utilizzate come alimento ricostituente, grazie al contenuto di minerali anche superiori al superfood, quali foglie di crucifere o spinaci. Il professor Roberto Zironi per la rubrica del vino ci parla della diraspatura e pigiatura delle uve. Le uve per le quali non è previsto un processo di selezione in cantina, dopo la raccolta sono poste in cari vendemmia, trasportate rapidamente in cantina e ribaltate in una vasca di ricevimento unita nella parte inferiore di una vite senza fine che gira lentamente, che regola l'alimentazione di una diraspatrice. Con lo schiacciamento dovuto alla pigiatura, si facilita la macerazione e si accentua la dissoluzione degli antociani e dei tannini, ma l'azione meccanica delle lavorazioni aumenta la stringenza e in generale i caratteri granulari sgradevoli. Pertanto, per i vini di pregio, si esegue una pigiatura leggera per rompere gli acini, ma senza provocare la frammentazione della buccia. Per evitare ogni azione violenta sui tessuti vegetali, nella produzione di vini di elevata qualità, ottenuti con lunghe macerazioni, si può applicare la sola diraspatura. Esistono oggi delle attrezzature che staccano accuratamente le bacche dal raspo senza strappare o tagliuzzare i pedicelli e le altre parti verdi. Il riempimento della vasca di macerazione con acini interi comporta negli acini integri presenti nel maceratore l'attivazione, per effetto dell'atmosfera di carbonica circostante, dei processi tipici della cosiddetta macerazione carbonica delle uve, con produzione di aromi fruttati caratteristici. Un'ulteriore tecnologia applicata in Francia, ma molto meno in Italia, e la fermentazione a grappolo intero, dove si macerano i grappoli integri posti nel fermentatore senza diraspare o pigiare l'uva. La macerazione a grappolo intero regolarizza il processo fermentativo, stabilizza l'acidità ed incrementa la longevità del vino. Influisce inoltre sull'aroma, la consistenza e la struttura tannica di un vino, impartendogli un carattere floreale, erbaceo e speziato che può essere apprezzato. La fermentazione a grappolo intero viene comunque applicati in Borgogna alla vinificazione di uve Pinot Nero. La proporzione di grappoli interi può arrivare fino al 100%, ma i valori comuni sono del 15-20%. Per minimizzare i rischi di ammostamento durante la vinificazione di acini diraspati o di grappoli interi, un ulteriore affinamento della tecnica consiste nell'organizzare la cantina secondo i principi del flusso gravitazionale, effettuando travaso o spostamenti del mosto senza consumo di energia e senza maltrattamento del prodotto attraverso pompe o altri sistemi, ma sfruttando esclusivamente la forza di gravità. L'uva, raccolta a mano in cassetti, viene selezionata su una piattaforma di smistamento sopraelevata sopra il serbatoio e le singole bacche o grappoli cadono nel serbatoio di macerazione uno per uno. Questo permette di ottenere una proporzione maggiore di bacche integre nei serbatoi e i vini risultanti avranno tannini e sensazioni in bocca più morbide e rotonde, oltre a un carattere di frutta rossa potenziato simile a quello della macerazione carbonica. Oggi Dario Di Gallo, ispettore della Forestale che ci cura la rubrica dei grandi alberi, ci parla dei maestosi filari di cipressi al castello di Susans. Da molte località dell'area delle colline moreniche si scorge, già a distanza, l'elegante profilo del castello di Susans in comune di Maiano. Situato sulla cima dell'omonimo colle, in splendida posizione panoramica, dalla quale si può ammirare il grandioso letto del fiume Tagliamento sullo sfondo dell'articolata fronte delle Prealpi. Lungo il viale di accesso principale alla struttura, un doppio filare di maestosi cipressi accompagna il visitatore fino al suo ingresso. Il castello venne costruito intorno al XIII secolo e dopo svariate vicissitudini medievali venne recuperato dalle sue rovine nel 1636 sotto forma di villa toscana da Fabrizio di Coloredo Mels, educato in quelle terre alla corte di Ferdinando I. Fabrizio volle portare in Friuli un ricordo di quella regione, con le forme della villa e l'impianto del doppio filare della pianta più iconica del paesaggio toscano, il cipresso, albero che dall'Egeo e dai Balcani si è diffuso per mano dell'uomo in tutta Europa, fin dove le condizioni climatiche ne hanno permesso la vita. inconfondibile nel suo aspetto slanciato e compatto, fittamente ramoso fin dalla base, andando a formare una chioma molto fitta dal caratteristico color verde intenso. I fusti degli esemplari di Susans, dall'aspetto molto articolato e dalla corteccia finemente fessurata, hanno circonferenze notevoli ed il loro sviluppo in altezza sfiora i 20 metri. La loro età, vicina ormai ai 400 anni, ci racconta di una specie molto longeva e dal lentissimo crescimento, il cui ricercato legno è apprezzato per la sua colorazione, resistenza e durata. È un albero nobile che dona nobiltà ai luoghi dove è radicato. Un piatto popolarissimo, quello degli gnocchi di pane, che ci porta alla mensa di molte famiglie e che Roberto Zotar oggi ci racconta nella sua versione con il formaggio. La cucina del Friuli, basata sulle risorse del luogo, un tempo lasciava poco spazio alla varietà e a pietanze elaborate, fatta eccezione per le famiglie abbienti e per i giorni di festa. I cibi preparati con quello che c'era o quello che avanzava erano amati e odiati per le medesime ragioni. Permettevano sì di sfamarsi in tempi di magra, ma erano gli stessi ogni santo giorno per chi non poteva permettersi altro. Certamente anche gli gnocchi di pane, piatto di recupero, suscitavano questi contrastanti sentimenti. In origine erano preparati solo con pane raffermo avanzato, impastato con erbe, spinaci o rape, mentre oggi è consuetudine arricchirli con formaggio e salumi, ingredienti che un tempo caratterizzavano la pietanza solo nelle feste solenni. Gli gnocchi di pane sono molto diffusi, con nomi diversi, in tutto il centro Europa. Si chiamano Knödel in Austria e in Baviera, mentre nel resto della Germania sono chiamati Klöße. In Boemia sono Knedliki, preparati spesso anche mescolando pasta cruda da pane con pane raffermo e realizzati a forma di grosso cilindro, poi bollito in un canovaccio, e serviti a fette, simili cioè nella forma agli austriaci Serviettenknödel. Dalla stessa radice di Knödel, Knot, cioè grumo, deriverebbe anche il termine delle più raffinate Knell francesi. Oggi vi propongo i gnocchi di pan col formaggio, ovvero i canederli al formaggio, con la ricetta dell'amica Marina di Trento. Per realizzarli, tagliate a piccoli dadini tre etti di pane raffermo, aggiungete tre etti di latte tiepido, anche se la quantità di latte dipende da quanto secco è il pane. Lasciate riposare mezz'ora, sbattete un uovo intero con sale, pepe, noce moscata e versatelo sul pane ammorbidito e mescolate con le mani. Si devono sentire ancora i cubetti tra le dita, ma il tutto deve essere amalgamato bene. Aggiungete un cucchiaio di farina e 2-3 etti di formaggio montasio tritato grossolanamente, volendo anche una manciata di prezzemolo di erba cipollina. Lasciate riposare ancora un momento, quindi con le mani inumidite formate gli gnocchi del diametro di 6 cm e disponeteli su un vassoio infarinato. Cuoceteli per un quarto d'ora in brodo che sobbolle. Serviteli in brodo o asciutti, conditi con burro fuso e grana o sugo di arrosto o goulash. Buon appetito! Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi in diminuzione venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 20 e 20 euro il quintale, IVA esclusa, il frumento tra 20 e 20 e 70, lordo peso specifico 62 e 65, tra 20 e 20 e 50, e la soia tra 45 e 45,50. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 11,30 euro il quintale e la soia di 8,70. In lieve miglioramento il comparto dei bovini da macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3 e 3,50 euro il chilo, IVA esclusa, quelle di seconda fra 2,30 e 3 euro. Prezzi diversificati nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi che vengono quotati fra 6,20 e 6,80 euro il chilo, IVA compresa. I pezzati rossi fra 4,40 e 5 euro. I frisoni tra 2 e 2,20. I bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Quotazioni discordanti nel comparto dei suini, con i lattonzoli 30 kg quotati franco partenza dall'azienda a 4,09 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 2,06. Dal territorio di Tolmezzo rileviamo i prezzi del legno da ardere interi, che vengono quotati oggi da 9 a 10 euro il quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è diminuito di circa 1,50 euro. Infine, in fibrillazione il settore degli avicunicoli, con i poli a terra che quotano da 1,20 a 1,22 euro il chilo, IVA esclusa, le anatre da 3,46 a 3,50, i tacchini maschi da 1,60 a 1,62, i conigli oltre 2,5 kg da 3,14 a 3,20, le uova oltre i 73 grammi provenienti da alimenti a terra sono a 18 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. La prima decade di gennaio è stata decisamente più calda della norma, con circa 2,5 gradi in più e abbondanza di precipitazioni, dato che di fatto il giorno dell'Epifania sono caduti anche 100 mm di pioggia, mentre oltre i 1000 metri circa è nevicato. Per tutta la decade ha prevalso la nuvolosità e questo ha impedito anche il raffreddamento per irraggiamento nelle lunghe notti del periodo. Per contro, negli ultimi giorni, in parte per l'arrivo di aria più fredda, in parte per il sereno, le temperature minime sono scese decisamente e con esse ovviamente anche le medie, che ne sono pesantemente condizionate. Trieste e la costa hanno avuto un regime leggermente diverso, dato che sono state maggiormente condizionate dalla bora, che talvolta ha soffiato forte ma mai fortissima. La bora ha contribuito decisamente nel raffreddamento del mare negli ultimi giorni, ma a livello di prima decade il risultato è eccezionalmente caldo, con quasi 3 gradi oltre la norma. Per quest'ultima settimana abbiamo toccato i 5 gradi sotto zero in pianura e i meno 10 nelle valli alpine innevate. Per ora i valori più bassi dell'inverno, ma assolutamente lontani dalle minime inferiori a meno 10 in pianura dello stesso periodo dell'85, sono passati quasi 40 anni. Sull'Europa centro-occidentale si estende ora una zona di relativa alta pressione che fa fluire correnti settentrionali secche in quota sulla regione, ma nei bassi strati affluiscono correnti sud-occidentali più umide. Fino a domani sera, sul Pordenonese avremo cielo variabile, con tempo migliore sulla pedemontana. Sulle altre zone di pianura e costa cielo da nuvoloso coperto, con qualche possibile piovigine o debole pioggia sulla fascia orientale e sul Carso in particolare. Sui monti in quota bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura. Nelle valli aumento della nuvolosità dal pomeriggio sulle prealpi e in serata anche sulle Alpi. Domani lo zero termico sarà sui 1200 metri circa. Martedì giungerà una massa d'aria più secca e su tutta la regione avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche velatura. Al mattino saranno possibili nebbie o nubi basse nel Tarvisiano e in Valcellina. Su pianura e costa soffierà borino o bora moderata e lo zero termico si manterrà sui 900 metri circa. Tra mercoledì e giovedì giungerà un fronte. Al mattino di mercoledì avremo cielo variabile. In giornata aumento della nuvolosità fino al cielo coperto a iniziare dalla costa. In serata possibili piogge sparse su bassa pianura e costa, in estensione nella notte e nella giornata di giovedì al resto della regione, con neve in montagna. Da venerdì e per l'intero fine settimana tornerà a rimontare l'anticiclone con aria secca in quota e vento di bora su pianura e costa. Le giornate saranno belle, con cielo sereno, ma fredde, con temperature minime ampiamente di nuovo sotto zero. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. San Bastian, un'ora in man, ovvero a San Sebastiano il 20 gennaio, letteralmente un'ora in mano, le giornate si sono allungate più o meno di un'ora. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail levitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Miccoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.